penso che ci sia in questa fase una forte distonia tra l'andamento della finanza e quella che è l'economia reale. Anche lei prima citava dati positivi, la ripresa c'è, è una ripresa che è molto forte in Asia, è una ripresa che è discreta negli Stati Uniti e certamente meno vivace in Europa, ma noi italiani, per esempio, ci stiamo avvantaggiando di questa ripresa internazionale soprattutto attraverso il canale delle esportazioni. Noi strutturalmente abbiamo una crescita economica che è molto trainata dalle esportazioni. Siamo il paese europeo con la maggiore diversificazione dei prodotti esportati. Dopo la Germania siamo il paese europeo con la maggiore diversificazione dei mercati di sbocco, cioè vuol dire che esportiamo tantissimi prodotti e soprattutto in In tanti molti, paesi, molti paesi. certo.